avverto subito il calo di tensione. In fondo alla piazza, girato, le guardie ancora lì davanti, a una ventina di metri ma ora ferme, sempre pronte però a ripartire se solo qualcuno facesse un passo verso di loro. Dalla testa sento scorrere il sangue verso il basso, come se fino a quel momento si fosse concentrato tutto lì per avere il massimo di energia e poi potesse d'improvviso tornare a fluire a un capogiro, come quando ci si alza dal letto troppo in fretta. Presidio, cominciato 3 ore prima, comune, enti locali, prefetto, si incontravano in prefettura per decidere fumose misure anticrisi, così occupanti di case, lavoratori e lavoratrici di aziende in crisi, precari, disoccupati, avevano indetto un presidio lì davanti, in quella piazza, santissimi apostoli, dove anni fa finivano quasi tutte le manifestazioni di quelli che, volta a volta, erano chiamati autonomi, ragazzi dei centri sociali, era antagonista, squatter, etichettando semplicemente una delle piazze più piccole del centro di Roma, dove poter stare belli rinchiusi senza troppi spiegamenti di forze dell'ordine. Davanti alla transenna l'amplificazione non è così potente, poi c'è poco da fare, i comizi sanno tutti benissimo perché sono lì. Questi signori oggi vogliono decidere le vite nostre, però non c'è nessuno là dentro che ci può rappresentare. Allora perché non ci fanno salire e dire quello che vogliamo, di cui abbiamo bisogno, a cui abbiamo diritto? Perché il sindaco Levanno prima delle elezioni se ne esce con questo piano per 100.000 posti di lavoro nell'edilizia, che fino l'ho fatto, 40.000 case promesse in campagna elettorale, giù e giù e giù e giù, e noi la casa ce la dovete, dai, noi la crisi non la paghiamo, scandito in romanesco stretto anche dai lavoratori africani cacciati a Rosarno. La piazza certo non è gremita, sono in tanti e tante le occupazioni, sanno che una stanza in un residence o un palazzo abbandonato non è un regalo di associazioni benefiche, ma va mantenuta e conquistata, partecipando a picchetti, presidi, cortei. La composita mappa geografica della Roma proletaria venne scandita dalle pelle al megafono che chiamano i quartieri: Casal Boccone, Serpentara, Acila, San Basilio, Prenestino, Ostia, Presenti, Presenti, Presenti, Presenti, salutati con applausi ma soprattutto invitati a venire avanti, non stare sui marciapiedi che non siamo venuti a fare check-in. Maracanà, Maracanà, siamo venuti fino a qua, rende l'idea di come si sentono occupanti di case della cosiddetta estrema periferia geografica e sociale, al centro di Roma, la Roma del Colosseo, di Piazza Venezia, del sindaco, dei collegamenti dal telegiornale, i volti di uomini e donne di ogni età, magrebine, africani, egiziani, arabi, latinoamericani, portano a quelli indagini del tipo che qui, nella condivisione della comune condizione oggettiva di lotte, non c'è razzismo. La ragazzina della Laurentina, l'egiziano che cerca di vendere gli anelli, l'africano che si mette in mezzo a contrattare mentre scroccano sigarette e formano un'unica umanità che viene a costituire la nuova Roma, che da secoli accoglie e assorbe gente da tutto il Mediterraneo e oltre. Poi ripensa a tutte le storie di difficile convivenza che si ritrovano anche nelle occupazioni, una realtà di lotta, capisco che è meglio volare basso al qui e ora, in una piazza dove gente reclama diritti, vuole l'incontro per poterne parlare, di fronte a un palazzo dove questo incontro non fanno mistero di non averne alcuna voglia, in mezzo alla polizia. Le 5:30, 2 ore dopo l'inizio del presidio, e il freddo di un febbraio ostile alla peggiorina fine, al megafono ormai stufi di gridare slogan, non c'è mai più niente da dire, solo gridare e dire quello per cui si sta lì in piazza, un incontro, né più né meno. Qualcuno riferisce di un tavolo fissato per domani, ma dice il megafono, almeno vogliamo un incontro di un quarto d'ora, oggi, come espressione di buona volontà. Un quarto d'ora, che sarà mai? Il tempo che raccogliete tutte le vostre borse, vi fumate una sigaretta, prendete un appunto mentre parliamo, fate 2 vaghe promesse e ce ne andiamo. Un quarto d'ora, no? No. No. No, e allora che siamo venuti a fare? Allora non esistiamo, le domande ronzano nelle teste e nelle voci, ma ormai sono state un'unica parola scandita, incontro, incontro. Davanti dicono quelli dietro ad avanzare, piano, un passo alla volta, i poliziotti si mettono i caschi, ancora dai, opa, passa alla volta. E i poliziotti si avvicinano e stringono. Qualcuno di loro inizia a spingere chi sta dietro lo striscione. Si sta stretti davanti ora. La gente compatta è l'unica forza di restare vicino, non c'è un casco, non un manico di bandiera. Nessuno ti apre il volto perché c'è qualcosa da nascondere, inizia a caricare dal lato del centro, non c'è stato un ordine, semplicemente qualche poliziotto che non c'è di attenzione e parte, tutti gli altri dietro. Ma iniziano con le spinte e partono direttamente con i manganelli. Quando 30 uomini armati di manganello e protetti dai caschi inseguono gente a mani nude, che deve pensare anche a proteggere bambini e gente anziana, chi sta davanti ha solo il ruolo di dare agli altri quei 2 minuti per mettersi in fuga. Così la corsa viene alla fine della piazza, è uno stop and go, si corre e ci si gira, si corre e ci si gira, si corre e ci si gira, si corre e ci si gira, vedi che le guardie stanno correndo ora, ma non sole, portano anche il blindato con loro in una piazzata come questa. Forse ora è per il caso di correre, correre, correre e basta, arriva in fondo alla piazza, pare finita. Qualcuno si organizza per fare il giro dei vicoli. I negozi sulla piazza hanno chiuso. Qualcuno si tiene la testa, si sente gridare in spagnolo, in arabo, con il cellulare e dice: non venì, non venì, sta attento, stai, non me non per cazzo. Pian piano la gente ritorna nei vicoli, ci si guarda per assicurarsi, è tutto ok. ma non tutte le voci sono rassicuranti. Qualcuno piange, il compagno all'ospedale, le ha rotto la cabeza. Poi dicono che ne ha preso un compagno, portato dentro un cellulare, ora chissà dov'è. Si sbraita e si sbrocca anche un po' con le guardie lì davanti, che si prendono insulti muti, ma che non retrono un passo, a far capire che ci mettono un attimo a ripartire e fare ancora più male di prima. Intanto un gruppo si è riformato lì davanti, passati attraverso i vicoli, ritrovati di nuovo all'inizio della piazza verso via 4 novembre. Le guardie costrette ad arretrare. Chi sta dietro può riformare nelle fila. Un accenno di cordone. Avanzare. Piano. Senza fretta. Dopo la carica un gruppo davanti si raggiunge tutti insieme in un improvvisato corteo, riunitici a pezzi dispersi e tornati insieme. In piazza. Si alza un coro. Non l'avevo mai capito prima. Gente come noi non molla mai, la gente come noi non molla mai, la gente come noi, la gente come noi, la gente come noi non molla mai.